Ricordo l'altra estate con te. Promettesti di ritornare da me. Ma se per caso tu non torni più, questa spiaggia vuota sarà una febbre di sole e di te mi consuma come allora. Ma tu non sei qui su questa spiaggia con me. Ricordo quell'estate con te, un'estate che in un attimo passò. La sabbia tiepida ci accoglierà, abbracciati insieme così, una febbre di sole. Tu non sei qui su questa spiaggia con me. Come